18 minuti e 50 secondi di mercoledì 2 dicembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Questa è la terza parte di 24 Mattino. Alle 8.35 ci occuperemo del vaccino anti-Covid che dovrebbe arrivare in gennaio. Oggi il ministro Speranza alle 9.30 presenterà il piano per distribuirlo, ma soprattutto vi chiederemo se è il caso, secondo voi, di mettere l'obbligo di vaccino per il Covid. Il problema è stato sollevato nuovamente ieri dalla Consulta Nazionale di Bioetica, la quale ha detto che in alcuni casi, per esempio per il personale sanitario, si dovrebbe fare. C'è qualcuno che ritiene legittimamente invece che debba essere obbligatorio per tutti, per tutelare la salute di tutti. Altri invece ritengono che si dovrebbe procedere, ed è la via che sta intraprendendo, che sta pensando di intraprendere il governo, più che altro ad un'opera di convincimento, chiamiamola così. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, e l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Potete iniziare a prenotarvi già, a chiamare già adesso, naturalmente, il nostro numero verde. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno. Oggi ho un bel personaggio del giorno che si chiama Josef Zeyer. Tu mi direi, ma chi è Josef Zeyer? Ma in realtà lo so, perché questa è la storia del giorno, questa. È un deputato, un eurodeputato di Orbán, importantissimo, il suo braccio destro, che domenica scorsa è stato beccato inopinatamente, perché lui è un paladino della famiglia, è stata la persona che ha voluto fissare il passaggio definitivo, l'Ungheria protegge l'istituzione del matrimonio come unione tra uomo e donna, insomma, poi è sposato una giudice costituzionale ungherese molto importante che si chiama Tünde Andó, insomma, un grande personaggio della politica ungherese che è stato beccato domenica in un festino di quelli che si chiamano gag bang in codice, che sono i festini omosessuali. Anche omosessuale, in un appartamento a Bruxelles di Rue de Pierre, che è a due passi dalla Grand Place, insomma un posto molto noto per chi ha conosciuto Bruxelles, sopra una brasserie, in un appartamento sopra, comunicante credo con questa brasserie, c'era questo festino, è contro le leggi del lockdown, certo. Quindi è arrivata la polizia, li ha beccati tutti, lui ha provato a dire, il tentativo, prima Paolo, scusa, il tentativo di fuga ha provato a fuggire dalla grondaia, aggrappandosi alla grondaia, beh, meraviglioso, ha provato a fuggire dalla grondaia e poi ha provato a difendersi, insomma. Ieri si è presentato dal capo presidente dell'Europarlamento David Sassoli, gli ha detto: ma sai, guarda, io verso la fine dell'anno vorrei abbandonare, sto in un periodo di ripensamento. David Sassoli, che aveva letto i giornali belgi evidentemente, gli ha detto: oh, insomma, acceleriamo, e si è dimesso. È un colpo mortale, adesso no, mortale eccessivo, però un colpo molto duro per Orbán, ed è un colpo molto duro per Orbán, a parte per l'immagine, perché sai, il campione della famiglia, del modo di presentarsi di Orbán al mondo, non c'entra niente col recovery plan, però nel momento in cui Orbán si mette di traverso al recovery plan, questo colpo può avere delle conseguenze. Quindi per noi, visto che guardiamo i soldi, io e te siamo molto cinici, certo. Per noi può facilitare l'arrivo di questi fondi, i famosi 208 miliardi, può essere un aiutino, a meno che Orbán dopo questa botta non si irrigidisca, però questo lo vedremo domani. Ma nel frattempo, a fare da contraccolpo a questo, un'altra sorpresa: togliti per un momento dal recovery plan e mettiti sul MES, è quello di Berlusconi. Paolo, scusami, ma tu l'hai capita questa cosa? Perché ieri Silvio Berlusconi, che cosa ha fatto? Lo diciamo agli ascoltatori, ha detto: noi non voteremo la riforma del fondo salva stati, su questo allineandosi a Matteo Salvini, ma dall'altra parte ha detto: beh, però siamo a favore dell'utilizzo dei soldi del fondo salva stati. Io mica l'ho capita tanto bene questa cosa. Geniale perché ha fatto lo specchio di quello che è l'atteggiamento prevalente nei 5 Stelle. I 5 Stelle hanno detto che loro voteranno la riforma del fondo Saldasati, ma non l'arrivo dei 36-37 miliardi del MES. Hai capito? Hanno diviso in due la questione del MES, trovando una, così, insomma, una riforma del fondo salva stati che dovrebbe togliere lo stigma, cioè dovrebbero fare una riforma per cui chi riceve quei soldi non si deve più vergognare, non deve più andare in giro facendo la figura di quello con le toppe nei pantaloni, tutte le cose che appunto costituiscono stigma. E Berlusconi ha detto no, no, il fondo salva stati può rimanere così com'è, noi però quando si presenterà la questione dei soldi voteremo a favore dei soldi. È ovviamente un pasticcio, è un gioco di prestigio sia da parte dei 5 Stelle sia da parte di Berlusconi, però nel centrodestra si festeggia e anche una parte del centrosinistra festeggia, sì, perché finalmente sul Fatto Quotidiano dice ah, si può tornare a parlare del Berlusconi, so, e oggi sono due intere pagine, Olgettine stragi, sì, imputato d'Italia da Milano a Bari, Silvia alla sbarra per aver pagato il silenzio delle testimoni, a Firenze invece indagato per le bombe del 93, insomma siamo tornati ai tempi passati. Io lo dico da tempo, trattare con Berlusconi senza una revisione a grandi linee del giudizio su Berlusconi e fissare un punto è impossibile, non si può andare avanti mostrandolo un giorno come un dio dell'Europa unita e il giorno dopo come una specie di erede di Al Capone, che insomma sì, si può anche fare, lo stanno facendo tutti di fare questo gioco di tre, ma non porta lontani e lascia le carte in mano a Berlusconi che li fa ballare come credo che si diverta moltissimo in questa fase. Assolutamente, sì, perché un giorno ne dice una, il giorno dopo ne dice un'altra, il giorno prima è vicino alla maggioranza, il giorno dopo si riunisce all'opposizione, sta facendo ballare un po' tutti, anche dalla sua parte, anche nel centrodestra. Beh sì, del centrodestra sì, perché si vedono tutti, cioè, ovviamente alla sua lealtà a lunga distanza, né Salvini né la Meloni credono affatto. Però i suoi, in senso più stretto, già si vedevano ministri che vedevano un rimpasto e qualcuno di loro poteva sperare di avere un ministero, un viceministero, una presidenza di commissione, insomma quelle cose che contro un partito ridotto al 6-7%, anche questo fa gioco. E, insomma, ascolta, tutto ritorna. Ascolta Paolo, ti porterei dall'altra parte, no? Perché c'è chi vede molta mano del Partito Democratico nella vicenda Unicredit, nell'arrivo di Piercarlo Padoan alla guida, alla presidenza, è presidente designato, non è ancora presidente della banca, l'addio di Mustier in forza proprio della questione del salvataggio di Monte dei Paschi. L'addio di Mustier e ieri poi il titolo Unicredit che è capitombolato, ha perso l'8% e la banca assicura, questo l'articolo del Sole 24 Ore lo avrei già letto, impeccabile, dice ma no, noi non faremo mai operazioni che ci danneggiano, alludendo al prendersi il Monte dei Paschi di Siena, ma il Monte dei Paschi di Siena viene considerato, a torto secondo me, a torto perché è stato molto ben risanato, però una polpetta malefica, avvelenata, e nonostante lo Stato abbia aggiunto una bella dote di miliardi su miliardi a chi se lo prenderà, il fatto di inglobarlo in Unicredit viene visto come pericoloso, almeno dal mercato. Questi risparmiatori che sono così occhiuti, che sono così diffidenti, evidentemente non sono entusiasti alla prospettiva, però il pasticcio, come tu dicevi, pasticcio oppure l'iniziativa è combinata insieme, secondo quello che dicono molti giornali, La Verità è uno tra questi, da Padoan e D'Alema, che si occupa di quella che è la banca. Ancora D'Alema? È D'Alema, noi lo stiamo sorvegliando. Guarda che D'Alema è dietro tutto in questi giorni, ripeto, è dietro tutto, per tutto ancora, l'anno ancora, che preparerà le elezioni del Presidente della Repubblica. Ieri si è presentato a una riunione, un convegno del Confcommercio, della Confcommercio Giovani, è andato lì perché lui dice che è uscito dalla politica e che fa un lavoro tranquillo, molto interessante, di politica internazionale, però ha detto una frase che ha colpito i giornali: chi come me ha responsabilità pubbliche ha la responsabilità anche di aiutare, se richiesto, di dare consigli. Allora, insomma, dice: se me lo chiedete, io vi do consigli, sono qui, sono pronto. Non ti dico, appunto, i giornali della destra dicono: no, noi quei consigli non li vogliamo, però invece i giornali della sinistra questi consigli mostrano di gradirli. Ci sono alcuni giornali come quello di De Benedetti che per pena del suo direttore Stefano Giorgio Meletti dice che la finanza ha copiato il peggio della politica, uno schifo, lo scandalo di Unicredit lo chiama, però invece, e ricordatelo sempre che D'Alema e Veltroni sono una coppia, sono i dioscuri della nostra politica, e anche Veltroni oggi è sui giornali per delle notizie in parte positive, in parte negative. Quelle negative, le dico subito, è che gli hanno fatto fare alla Sette un commento a una riedizione di Italia Argentina, di Argentina Inghilterra del 1986, l'hanno fatta come se fosse in diretta col commento di Veltroni e Riccardo Cucchi, facendo saltare, facendo saltare una puntata di Grey's Anatomy che molti attendevano, c'era Veltroni, quindi sì, giusto. Vabbè, ed è stato un flop incredibile, è andato sotto il 2%. Talché il Libero fa un titolone: Veltroni trasforma Diego in una schiappa, persino Maradona col tocco di Veltroni viene trasformato in una schiappa, però viene risarcito, sì, perché Veltroni ha scritto un nuovo libro, un altro, non so se è il primo di quest'anno, non lo so, però è un libro fondamentale, io lo correrò a comprare appena finiamo la trasmissione, che si chiama Il labirinto italiano per le edizioni Solferino, e vabbè, sarebbe un libro, ma in via del tutto eccezionale ha una prefazione del direttore del Corriere Luciano Fontana e viene presentato in prima pagina sul Corriere della Sera dallo stesso Luciano Fontana. Non può essere il paese dei furbi, come uscire dal labirinto, il nuovo libro di Veltroni. Ecco qua. Ecco. Beh, devo dire, insomma, non, è Natale, regalate il libro di Walter. Ha fatto presto a dimenticare la cosa di Diego Maradona e per fortuna sua. Mi fai segnalare due cose rapidissimo, Paolo, brevissimamente, sì. Una, che Travaglio sta conducendo una battaglia solitaria sul tema delle carceri contro i tre tenori, li chiamo così, che sono stati Manconi, Saviano e Veronese, tre scrittori di vaglia, che contemporaneamente qualche giorno fa su Corriere della Sera, Stampa Repubblica, hanno difeso la proposta di Rita Bernardini di liberare le carceri in occasione del Covid. Lo fa con argomenti che costringono i tre tenori a riconsiderare le loro posizioni, tant'è che oggi, per esempio, Saviano, che duella con lui, è costretto a lasciare l'argomento, sì, Covid, a dire no, le carceri vanno liberate, perché in effetti nelle carceri il contagio è stato maggiore che nel paese. E l'altro è Maria Latella, che ha difeso Virginia Raggi, insultata da Salvini sul Messaggero. Siccome il Messaggero è un giornale che non ha simpatie per la Raggi, secondo me è lodevole questa cosa che ha fatto, che è stata, sì, fatta fare a Maria Latella, di difendere la sindaca di Roma, che ha odi a destra e a sinistra e anche nel suo partito, sul giornale, perché se no, se uno difende dagli insulti sessisti solo i suoi, e quando capita agli altri, o peggio, quando capita agli avversari, fa finta di non vedere, beh, questo non è bello in un paese. No, Quindi, brava la Maria Latella. Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. E se ne torna a discutere, di obbligo di vaccino in relazione ovviamente al prossimo venturo vaccino contro il Covid, del quale oggi il Ministro della Salute Speranza illustrerà il piano di distribuzione o qualche passaggio del piano di distribuzione. Se ne torna a parlare perché ieri la Consulta, il Comitato Nazionale di Bioetica, ha detto che non bisogna escludere l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla sua trasmissione. Se ne torna a parlare perché qualcuno è convinto che per la ripartenza sia necessario renderlo in realtà obbligatorio per tutti, come era in passato per altri vaccini e come sono stati resi obbligatori alcuni vaccini, appunto, per i bambini. E perché altri invece invocano una sorta di libertà di scelta. Saluto il professor Lorenzo Davac, presidente del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Benvenuto. E grazie per essere tornata a noi anche Stefania Salmaso, epidemiologa che per 10 anni ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Bentornata professoressa Salmaso. Allora professor Davac, ci dia qualche dettaglio dei contorni. Quando parliamo di bioetica parliamo di una strana disciplina che interseca filosofia, etica, appunto, medicina, diritto. Allora ci dia un po' i contorni della vostra idea, delle conclusioni che avete raggiunto, professore. Sì, dunque guardi, io credo che una vicenda come questa del Covid-19, oltre che essere trattata dal punto di vista strettamente scientifico, virologo, virologi, eccetera, sociologi sicuramente, ma anche dal punto di vista etico, e difatti ci sono una serie di problematiche che hanno delle ricadute nell'etica. Penso per esempio a quello che può essere il tipo di ricerca che viene fatta sui vaccini, come deve essere fatta eticamente, rispetto delle regole giuridiche, ma anche delle regole etiche. Penso ai costi, che devono essere dei costi ovviamente contenuti, considerando il vaccino un bene comune, un bene globale. Penso ancora al problema appunto della distribuzione di queste risorse e poi quel problema che lei ha toccato anticipatamente, il problema dell'obbligatorietà. Ma mi dica lei su quali di questi temi le vorrebbe. Vorrei, ma siamo un attimo stretti sul tema dell'obbligatorietà e poi semmai se avremo tempo allora guardi, io le posso dire una cosa, innanzitutto forse guardi, questo è prevalentemente il mio pensiero, perché come lei avrà visto anche nel parere ci siamo tenuti molto soft, è il caso di dire, in linea di massima abbiamo raccomandato quello che è un principio costituzionale, che nessuno venga sottoposto a un trattamento sanitario senza il suo consenso, e quindi vale anche questo per i vaccini. In secondo luogo però vale anche il principio che in caso di estrema necessità vi sia la possibilità da parte dello Stato evidentemente di imporre determinati trattamenti sanitari. Io credo che adesso sia tutto molto prematuro dire se il governo dovrà imporre o non imporre l'obbligatorietà e a che livello imporre l'obbligatorietà. Perché le dico questo? Perché noi non sappiamo ancora bene qual è il vaccino, che tipo di percorso ha fatto, l'informazione che è stata data ai cittadini non è ancora un'informazione piena, completa, limpida direi, e consideri anche che non sappiamo se questo vaccino avrà maggiore effetto, faccio per dire, sulle fasce più vulnerabili o meno, e se funzionerà per esempio sui minori o quant'altro. Quindi io credo che ci siano una serie di questioni che devono essere affrontate prima ancora di pensare all'obbligatorietà. Sì, certamente. Guardi, però io capisco questo discorso. Dall'altra parte mi viene da dire che se non prepariamo il terreno su questo fronte, non iniziamo a ragionarci, poi ci ritroviamo sempre all'ultimo minuto a dover approntare una strategia che vada nella direzione dell'obbligatorietà o della non obbligatorietà o del consiglio, ritrovandoci poi in mezzo a TAR, tribunali e via dicendo, e creando un caos nella copertura vaccinale. Quindi quello che dico, non sto prendendo una posizione sull'obbligatorietà o meno, dico semplicemente che forse ragionarci un po' prima può essere utile. Professoressa Salmaso, aspetti un attimo, professore, tanto torniamo da lei, abbiamo tempo. Professoressa Salmaso, lei come la vede? Allora, sull'obbligatorietà stiamo toccando un tasto molto, diciamo, molto battuto in Italia, perché l'Italia, a differenza di tanti altri paesi europei, per anni ha introdotto i vaccini obbligatori per l'infanzia e abbiamo avuto moltissime alzate di scudo contro il fatto che l'adesione a una profilassi individuale, ma con un beneficio di comunità, debba essere basata su un'adesione consapevole. E quindi in qualche modo mettere una legge che ha imposto a tutti la vaccinazione, per esempio quella dell'infanzia contro la polio, ci ha permesso di eliminare la polio e arrivare a dei risultati fantastici, da un'altra parte magari ci ha permesso di non investire troppo invece sull'adesione consapevole. Quindi il beneficio sembrava sotto gli occhi di tutti. Quindi quando si parla di obbligatorietà, purtroppo in Italia abbiamo una sorta di dicotomia di percezione. Da una parte c'è chi pensa che se il vaccino non è obbligatorio non è sufficientemente importante, e l'abbiamo visto con i vaccini cosiddetti raccomandati. Abbiamo lavorato per anni nel superare il divario tra raccomandati e obbligatori, perché per esempio il morbillo non era obbligatorio e la difterite sì, e allora le persone pensavano: ma se non è obbligatorio non è importante. Dall'altra invece avevamo tutto un altro schieramento che diceva: ma l'obbligo è un'imposizione che di fatto taglia la mia possibilità di scelta. Adesso, parlando, quindi stiamo toccando una situazione molto articolata con diverse percezioni. Secondo me è giusto parlare adesso della situazione Covid, perché qua stiamo parlando però di una situazione completamente diversa, che non deve essere nemmeno poi ideologizzata. Stiamo parlando di un obbligo che non sarebbe, secondo me, pensabile per la popolazione ordinaria. Stiamo parlando di un obbligo, per esempio, per certe categorie professionali. Allora, il medico che lavora a contatto con pazienti Covid ha l'obbligo di vaccinarsi, ammesso che il vaccino sia sicuro, tutto quello, perché poi quando ce lo consegneranno avrà passato il vaglio e avremo le indicazioni d'uso. Allora, se esisteranno dei vaccini che sono adeguati, e sarà obbligatorio dire a chi va a curare le persone anziane, fragili: devi essere vaccinato, se no non ci puoi entrare? Secondo me questa discussione può essere fatta adesso e dovrebbe essere fatta adesso. Quindi alcune limitazioni, cioè ragionare eventualmente sull'ipotesi che se non sei vaccinato tu possa, cioè non ci sia un obbligo vero e proprio, ma tu possa avere alcune limitazioni se non sei vaccinato per quella malattia. Certo, per proteggere gli altri questo, sì. Però è ovvio che in una situazione in cui andiamo alla ricerca disperata del personale sanitario, poi non è che potremo decidere che appunto chi non è vaccinato viene esentato dal servizio. Faccio presente che la vaccinazione per il personale sanitario, ad esempio, dovrebbe essere fatta continuamente a tutti quanti nei confronti dell'epatite virale di tipo B, per esempio, che è una malattia che si può trasmettere da sanitario a paziente. Dovrebbe essere fatta, per esempio, un medico che lavora in un reparto di pediatrico, di oncologia, ad esempio, dovrebbe essere vaccinato contro il morbillo e contro la rosolia, perché non deve portare l'infezione ai suoi pazienti. Quindi qua è vero che siamo nell'emergenza, è vero che discutiamo di una situazione eccezionale, ma il problema ha radici molto profonde, sì, secondo me. Sì, a testimonianza di questo un dato di cronaca dei giorni scorsi, e lo do per gli ascoltatori affinché lo sappiano: la Regione Puglia ha provato a imporre al personale sanitario la vaccinazione anti-influenzale obbligatoria e gli infermieri hanno fatto, l'associazione degli infermieri ha fatto ricorso contro questo. Qualche voce di ascoltatore. Io pensavo di farlo il vaccino, ma dal momento in cui dovesse diventare obbligatorio non lo farò. Rendere obbligatorio un vaccino sviluppato in 3 mesi e non si sanno le sue conseguenze fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, non si sa niente. Cioè, se uno lo vuole fare, amen. Ma se uno non lo vuole fare, mi dispiace, caro Spezia, obbligatorio non esiste, ci limiteranno. Cioè, chi non lo vorrà fare diranno: ok, non è obbligatorio, però non entri in palestra, non vai al cinema, non vai a teatro. Però mi sa di anticostituzionale. Ma se un vaccino normale richiede anni per essere testato, com'è possibile che questo qui in 6 mesi è pronto? È naturale che la gente si chiede gli effetti collaterali che esso potrebbe avere? È normale, è normale. O facevano le cose a rallentatore prima, o adesso hanno affrettato un po' troppo. Insomma, professor Dava, che è un po' quello che diceva lei, che Stiamo ragionando su un obbligo di vaccino, un vaccino sul quale non abbiamo ancora i dettagli e ci sono oggettivamente delle persone che sono piuttosto spaventate ancora. Sì, io direi che sono abbastanza esitanti. Io le vorrei dire un attimo una cosa rispondendo a quello che diceva prima la dottoressa. Io condivido tutto quello che ha detto la dottoressa, ma in realtà lo condivide anche il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, perché il parere in realtà mette come ultima ratio l'ipotesi dell'obbligatorietà. Spera che si raggiunga in qualche modo l'idea di una condivisione generale, ma soprattutto lì dove parla di obbligatorietà non nei confronti di tutta la cittadinanza, peraltro mi lasci dire molto difficile da realizzare, conoscendo anche il nostro paese che non è in grado neanche di vaccinare completamente tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati per l'influenza. Già. Ma oltre a questo, tenga conto che noi stessi indichiamo come ipotesi di obbligatorietà fasce professionali e quindi evidentemente quelle fasce professionali intendiamo soprattutto quelli che sono i medici, per esempio gli infermieri, i trasportatori delle ambulanze, che sono a particolare contatto con i malati di Covid e che possono essere infettati loro ma infettare anche gli altri. Quindi categorie professionali, con l'invito anche nel parere che questa problematica dell'obbligatorietà venga dal governo discussa con le categorie stesse, in modo tale che si decida anche dal punto di vista deontologico sull'opportunità di rendere il vaccino obbligatorio o non obbligatorio. Sì. Io posso tranquillizzare. Per evitare, professore, per evitare si finisca per TAR, per tribunali amministrativi, cosa che è regolarmente successo su questi temi. Mi pare anche che sotto alcuni aspetti noi sappiamo che dal punto di vista costituzionale i trattamenti sanitari non possono essere obbligatori. Però sappiamo anche che lo Stato, in determinate circostanze di urgenza, di sicurezza per la popolazione, eccetera, potrebbe renderli obbligatori. Ma possiamo tranquillizzare i nostri cittadini sul fatto che immaginare un'obbligatorietà generale è pressoché allo stato attuale impensabile, perché non è realizzabile. Il problema è l'organizzazione, il problema è verificare quante dosi di vaccino abbiamo. Quindi è evidente che noi dovremmo privilegiare qualora... Innanzitutto dobbiamo privilegiare nella distribuzione anche spontanea le categorie che sono a maggior rischio, quindi abbiamo prima indicato i professionisti a contatto con i malati Covid, possiamo indicare le persone particolarmente vulnerabili e l'obbligatorietà, torno a dirle, può scattare ed essere efficace soltanto nei confronti di certe categorie professionali. Se lo immagina poter obbligare tutti i cittadini a vaccinarsi, davvero un'impresa disperata. La dottoressa parla anche di vaccini che hanno avuto anni e anni di verifiche e di controlli. Guardi professore, adesso voglio tornare anche su questo con la professoressa Salmaso, perché ci sono, come avrete sentito, ci sono molti dubbi dalle persone, se volete anche in forza le parole dette dal professor Crisanti nei giorni scorsi su questo tema. Però prima voglio sentire un ascoltatore, Maurizio dalla provincia di Latina. Buongiorno Maurizio, rapido se può, grazie. Buongiorno a lei, salve, sarò rapidissimo. Allora, al di là o meno che si possa rendere obbligatorio il vaccino, c'è anche una questione di natura etica, ossia la libertà di scegliere se fare o meno il vaccino confina con la libertà dell'altro individuo di vaccinarsi e di essere protetto, ragion per cui dove finisce la libertà di uno comincia la libertà dell'altro. Quindi, come diceva anche un altro ascoltatore, l'ho sentito poc'anzi, se io decido di vaccinarmi e tu decidi di non farlo, liberissimo di farlo, però tu, visto che sei un potenziale portatore di contagio, ti metti la mascherina e sei soggetto a restrizioni. Sì. Quello che si diceva prima, che diceva forse in parte anche la professoressa Salmaso, che vorrei coinvolgere su questo scetticismo che c'è, che si è generato intorno al vaccino, proprio per la rapidità con la quale sono stati realizzati questi vaccini, la rapidità che avrà il processo di approvazione. Professoressa, ci può dare qualche rassicurazione? Questo è deleterio, tutta questa chiasso che si è fatto, perché è assolutamente abbastanza ingiustificato. È vero che soprattutto negli Stati Uniti, per il momento politico che attraversavano, c'è stata un'accelerazione forte sul dichiarare che il vaccino era disponibile. Il vaccino è stato messo in cantiere basato su decenni di ricerca, quindi non è che hanno preso una ricettina e hanno fatto il vaccino in 3 mesi e uno dice no, non mi fido perché non è stato fatto rapidamente. Si figuri che addirittura le case farmaceutiche, le produttrici negli Stati Uniti hanno fatto un documento dove dicono all'ente regolatorio, al governo, non ci mettete troppa fretta perché noi dobbiamo fare le cose fatte bene. Quindi siamo proprio in una situazione paradossale. L'idea che normalmente ci voglia tanto tempo per sviluppare un vaccino è vera, ma l'idea che, che questo sia stato fatto rapidamente non vuol dire che sia stato fatto in modo meno sicuro, perché poggia le basi su ricerche che venivano portate avanti da moltissimo tempo e sono state applicate poi alla situazione che avevamo. Sì. È chiaro che nel momento in cui i vaccini saranno autorizzati dall'ente regolatorio, ed è sbagliatissimo parlare oggi del io non ho visto gli articoli scientifici, io non so, i vaccini non vengono autorizzati all'uso perché hanno pubblicato un articolo scientifico, vengono autorizzati all'uso perché quelli che li hanno prodotti hanno fatto gli studi che gli vengono richiesti obbligatoriamente, hanno presentato pile e pile di carta, di documentazione, di dati, di file che vengono vagliati dagli enti regolatori. Quindi chiunque sia fuori e dice no, non mi fido, mi sembra che sia un discorso assolutamente più legato all'ignoranza dei processi che ci sono dietro, tant'è vero che EMA, ad esempio, l'11 di dicembre, farà un seminario sul web, l'Agenzia Regolatoria Europea, che quindi mette insieme tutte le agenzie dell'Unione Europea, farà un seminario online l'11 dicembre per spiegare il processo in modo trasparente di quello che ha in mano. Sì, e questo mi sembra il massimo per poter cercare di convincere le persone che quello che si fa è fatto bene. Poi saranno loro che diranno come devono essere usati. Sì, anche perché lo ricordiamo agli ascoltatori, non ho tempo di farla intervenire di nuovo, professoressa Salmaso, mi permetto di dirlo io, pur non essendo né un medico né nulla, e nel ringraziarla, nel salutarla e nel ringraziare e salutare anche il professor Lorenzo Davac, anche perché i vaccini ci mettono tanto, anche perché la velocità dei finanziamenti che arrivano, la velocità del processo regolatorio normalmente nei vaccini normali non sono minimamente paragonabili alla velocità e alla quantità di finanziamenti che hanno ricevuto questi vaccini, tentativi di vaccino per Covid-19. Il punto è anche questo. Grazie Stefania Salmaso, grazie Lorenzo Davac, Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori Margherita Aina e Francesco Ciarà. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.